Lungo il corso son bloccate macchine e tramvai, che ha fermato il traffico di colpo come mai. Il più bel bambino che possegga la città vuole attraversare, lasciatelo passare. Che bel fiorin, che patani, chissà che bel papà che avrà, che papà, che papà. Lei è un angiolin, fastidio mi, deve essere un artista che l'ha fatto sì carin. Però che brava anche la mamma, che mamma, che mamma. Però che brava anche la mamma. Vi dirò per grande onor del padre mio che quel bimbo splendido magnifico ero io e che sui 20 anni mille donne al mio passar piene di passion si mettevano a cantar. Che bel fiulè, che bel lume, chissà che bella voce avrà, oi la la, oi la la, un bel cipè, come un galè, col suo chichirichilin canta cin cin quanto che. Se mamma pur non mamma, oh mamma, oh mamma, il cuor vicino a lui mi chiama, è proprio il tipo che vorrei sposare. Che bel fiulè, che bel nume, il cuor mi batte forte, Dio mi lascia conquistare. Ora sono nonno, ma la vita non è brutta. Ho un bel nipotino ed io gli fo la barba asciutta. Fumo la mia pipa e lui si fuma il biberon. E al vederci ognuno ci ripete la canzone. Che bel fiulin, che patanin. E dietro lui guardate qua, c'è il papà del papà. Lei è un bel vegin, Garibaldin. Che spende la pensione comprando il bombo al nipotin. Chissà cosa dirà la mamma.